Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapete qual è un settore dall'alto numero di start-up innovative nel mondo? Questo settore è il manifatturiero. Secondo il Politecnico di Milano, che ha raccolto alcuni dati sulle start-up innovative, negli ultimi 3 anni il numero di start-up innovative che operano nel manifatturiero è enormemente cresciuto, con una raccolta salita a 1,5 miliardi di euro. Ovviamente il Politecnico si riferisce a quelle finanziate dal private equity e dal venture capital, però comunque il dato interessante è lo stesso, perché vuol dire che ci sono molti nuovi imprenditori che fanno startup relative al mondo della produzione, che è il mondo più antico, vanno dai fondi di private equity e venture capital e trovano chi li finanzia. In particolare sono in forte crescita le startup sugli industrial analytics, che poi spiegheremo di che cosa si tratta, e sul Internet of Things. Questo dato è uno dei due dati di partenza con i quali io vorrei iniziare la trasmissione. L'altro riguarda l'indagine conoscitiva che ha fatto la Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati sull'Industry 4.0, dove ha calcolato che grazie all'Industry 4.0 è possibile per ciascuna impresa un aumento della produttività fra il 30 e il 50%. Quindi digitalizzando, interconnettendo, mettendo sensori e poi raccogliendo informazioni con quei sensori che diventano poi software, è possibile che l'azienda che lo fa abbia una produttività tra il 30 e il 50%. Questo ci dice molte cose sul dibattito circa la produttività nel nostro paese, dibattito che coinvolge anche i contratti di lavoro. Insomma, l'avrete capito, in questa puntata cerchiamo di parlare in modo innovativo di Industry 4.0 e parleremo anche dei nuovi modelli di business di questa quarta rivoluzione industriale. Il nostro ospite di oggi si chiama Luca Beltrametti ed è direttore del Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, nonché studioso di questi temi. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, buongiorno a voi. Ma secondo lei perché tutte queste start-up innovative nel manifatturiero? Ma perché da un certo punto di vista, adesso banalizzo, sta tornando di moda dopo l'ubriacatura della finanza degli anni 90 e dell'inizio del nuovo secolo. Credo che molti giovani si rendano conto che nel settore della manifattura c'è oggi uno spazio molto grande, perché lì c'è un'innovazione tecnologica impetuosa e perché lì si produce la ricchezza vera dei nostri paesi. Quindi da un certo punto di vista credo che sia una moda molto positiva e da salutare con molta simpatia. Credo che sia il segnale forse di una voglia di ritornare a, come diceva lei, alle cose antiche, ma dove si genera la ricchezza vera. Ecco, poi tra l'altro, siccome queste statistiche sono fatte sulla base degli investimenti del private equity e del venture capital, vuol dire che anche proprio il mondo della finanza se ne sta accorgendo dell'importanza e soprattutto della redditività potenziale del manifatturiero. Sì, certamente sì, lei diceva bene, questa indagine della Camera dice che sono possibili guadagni di produttività del 30-50%. Qui c'è qualcosa di un po' schizofrenico, nel senso che se uno guarda alle statistiche non solo italiane sulla produttività, ne escono dei dati molto, molto scoraggianti. Pensiamo che c'è, per esempio, negli Stati Uniti nel periodo 1995-2004 la produttività è cresciuta tantissimo, in media 3,2 all'anno. Dopo il 2004, quindi già prima che scoppiasse la crisi finanziaria, questa crescita era fortemente rallentata ed era scesa all'1,5, superando gli Stati Uniti. Il dato italiano è ancora più drammatico, perché la produttività in Italia oggi è sostanzialmente immutata rispetto all'inizio di questo secolo, mentre in Germania o anche in Francia è cresciuta del 17-18%. Insomma, anche la finanza sembra essersi accorta che c'è del guadagno potenziale nella manifattura. Infatti, non a caso, i fondi anche investono in queste start-up e finanziano queste iniziative. Sì, diciamo diciamo, c'è un'evidenza aneddotica, non scientifica, che dice che chi investe su queste tecnologie fa parecchi soldi. Questo, diciamo, basta visitare qualche azienda che ha investito su queste tecnologie e si vede che i ritorni sono molto importanti. Però c'è anche un qualcosa di un po' un nuovo clima culturale. Sì, un po' di misterioso nei dati, perché se uno guarda i dati delle statistiche ufficiali, in realtà tutto questo guadagno di produttività ancora non si vede. Non solo in Italia, ma in tutti i paesi del mondo. Diciamo, c'è una tendenza, in particolare negli Stati Uniti, ma in tutti i paesi industrializzati, a un rallentamento della crescita della produttività dal 2004 ad oggi, quindi già prima della crisi finanziaria. E questo pone degli interrogativi molto grandi, nel senso che noi possiamo pensare o che gli effetti di questa grande rivoluzione 4.0 non si siano ancora manifestati e che quindi, diciamo, ci attendano dei periodi molto positivi quando finalmente queste innovazioni tecnologiche si saranno diffuse nell'economia, o forse che ci siano dei problemi di misura per cui qualche cosa sfugge alle misurazioni statistiche tradizionali, o forse che queste innovazioni, pur molto importanti e che in alcuni settori determinano dei cambiamenti veramente radicali, può essere che non abbiano la portata rivoluzionaria che ebbero in passato innovazioni. Ma lei come la pensa? Qual è il motivo? Io mi iscrivo al club degli ottimisti, però non degli ottimisti acritici, ecco. Credo che il potenziale sia enorme. Credo però che il tema di avere la conferma dai dati e quindi non solo proclami, diciamo, di tipo anche un po' mediatico da parte di alcuni grandi portatori di interessi, credo che sia necessario aspettare prima di fidarci di questa cosa, che i dati ci diano traccia di questa rivoluzione davvero nella produttività. Ecco, questa puntata e anche quella di domenica domani, in cui intervistiamo Giuliano Busetto di Siemens, responsabile del settore industriale di Siemens, è dedicata all'Industry 4.0, la quarta rivoluzione industriale. Sul tema vi prego di ascoltare questa scheda. La rivoluzione che sta cambiando profondamente la manifattura mondiale è stata codificata in Germania e si chiama Industry 4.0, che in tedesco è Industry 4.0. In breve, è la nuova organizzazione aziendale conseguente alla totale digitalizzazione della produzione. Rispetto all'Internet delle cose, o Internet of Things, o IoT, rappresenta un passo in più. Su ogni componente manifatturiero ci sarà, o c'è già, un sensore che permetterà al componente stesso di dialogare con gli altri componenti e con la fabbrica prima, durante e dopo la produzione. Tutto questo genera una massa enorme di informazioni, i big data, che software appositi filtreranno e valuteranno, permettendo di prendere decisioni in termini di gestione, manutenzione e utilizzo del prodotto. Per gestire questi dati, ogni azienda manifatturiera dovrà trasformarsi in qualche modo in una software house e tutta la produzione sarà all'insegna del just in time. Saranno ridotte al minimo le scorte e i magazzini e ciò farà scendere i costi di produzione e probabilmente anche i prezzi finali dei prodotti. I componenti arriveranno solo quando saranno necessari per assemblare il prodotto e potranno essere assemblati fra loro in infiniti modi diversi e personalizzati. È la personalizzazione di massa che, insieme al just in time, è uno dei principali cambiamenti economici e sociali introdotti dall'Industry 4.0. Tutto questo fa capire come l'Industry 4.0 è un tema che non riguarda solo le fabbriche, ma l'intera società, il modo di vivere, la cultura. Pochi sanno che la rivoluzione dell'Industry 4.0 nasce da un atto di politica industriale del governo tedesco. È l'Hightech Strategy for Germany, un processo di definizione delle linee generali manifatturiere del paese, processo iniziato nel 2006 e periodicamente aggiornato. Il comitato di uomini d'azienda, politici e studiosi che formula l'Hightech Strategy for Germany nel 2011 ha individuato il fenomeno, lo ha classificato battezzandolo industry4.null e si è posto il problema di come affrontarlo e trasformarlo in un vantaggio competitivo per le sue aziende. La risposta è una strategia molto precisa, costruita con il coinvolgimento di studiosi universitari e manager. Le due aziende tedesche in prima linea in questo processo sono Siemens e Bosch. Il gruppo di lavoro ha presentato una relazione al governo tedesco che poi è diventata la base di un programma di politica industriale. In pratica si dimostra che per cavalcare con successo Industry4.0, le aziende tedesche devono diventare un unico gigantesco sistema integrato e si prospettano le strategie necessarie per farlo, che sono strategie politiche. Rieccoci in linea dopo la scheda che spiega che cos'è l'Industry 4.0, la quarta rivoluzione industriale alla quale sono dedicate questa puntata di sabato e quella di domenica alle 13. Con il professor Beltrametti stavamo parlando del possibile aumento della produttività che le imprese possono avere con l'interconnessione. Aumento della produttività che, al di là del dibattito perché come mai, si spiega soprattutto con i nuovi modelli di business, perché se le imprese adottano un sistema Industry 4.0, che vuol dire mettere sensori su tutto, ricavare dati da quei sensori e poi collegarli a un software che dà un monitoraggio 24 ore su 24 di quello che succede ed elabora dei modelli, ecco, se le imprese si dotano di questo possono ottenere delle nuove forme di ricavo e quindi guadagnare di più. Nella seconda parte della trasmissione vi spiegheremo come questo è possibile. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando col professor Luca Beltrametti e parlavamo del tema dell'aumento di produttività per le imprese che si dotano di tecnologie 4.0. Secondo la Commissione Attività Produttive della Camera, che ha fatto un'indagine conoscitiva, questo aumento di produttività può essere fra il 30 e il 50% e cercavamo di darci delle spiegazioni, no professore? Sì, la spiegazione più semplice è che le decisioni del futuro probabilmente saranno prese sulla base di informazioni molto più ricche e molto più dettagliate. Quindi è ragionevole pensare che queste decisioni saranno migliori, saranno più efficienti, e che questo condurrà a un uso più efficiente e più razionale delle risorse. Ecco, Scusi, stavamo cercando di capire come sia possibile, visto che queste tecnologie sono già in uso, se generano così tanta produttività, come mai contemporaneamente il paese, le industrie di questo paese in realtà hanno un problema di produttività, che è un problema italiano ma è anche un problema europeo e forse mondiale, il calo della produttività, e quindi c'è una sorta di contraddizione tra il dato reale della produttività e le proiezioni teoriche sull'Industry 4.0. Sì, in un'indagine credo molto interessante che Federmeccanica ha condotto, che verrà presentata 21 settembre a Roma, ci saranno alcuni dati, credo molto interessanti, che potranno contribuire a dare una qualche risposta a questa domanda molto, molto centrale. Credo che in prima battuta la risposta sia che ancora è un fenomeno che è conosciuto relativamente poco e che è ancora diffuso relativamente poco nella manifattura italiana. Però questo dato ci dice che il maggior aumento di produttività, forse più che operando sui contratti di lavoro e sulla flessibilità del lavoro, si ha attraverso l'investimento in tecnologie. Ne sono assolutamente convinto. Io credo che veramente da lì passi la sfida decisiva del paese. Credo che chi sta al governo si debba rendere conto che nella partita per la difesa della manifattura e la sua innovazione tecnologica passa davvero la partita del paese, perché la manifattura italiana resta la seconda manifattura europea, ma dal 2008 ad oggi ha perso il 25% della propria produzione, quindi diciamo c'è una situazione di reale allarme e noi qui ci stiamo veramente giocando il futuro di paese tecnologico, di paese in grado di pagare salari elevati, di paese in grado di trattenere i giovani più curiosi, più interessati. Ecco, ci sono degli esempi di aziende meccaniche eccellenti che hanno già iniziato ad aumentare la propria produttività grazie all'interconnessione e in questo convegno dimostreranno che si tratti non tanto di una rivoluzione, ma di una evoluzione e che non è necessario fare degli investimenti enormi in tecnologie e sconquassare tutto, perché tante volte gli imprenditori quando sentono parlare di quarta rivoluzione industriale un po' si spaventano e dicono cavolo, qui devo ribaltare tutto se non muoio, ma sono piccoli miglioramenti graduali, perché in fondo anche quando c'è stata la prima rivoluzione industriale con l'introduzione dei telai meccanici non è che la gente sapesse che stava facendo una rivoluzione, ha detto ma mettiamo un telaio meccanico e poi proviamo. Sì, una delle cose divertenti di questa rivoluzione è che si fanno i convegni prima che i risultati della rivoluzione si siano manifestati, ma insomma al di là di questa battuta, effettivamente le persone tecnicamente di grandissima qualità che facevano parte di questa task force di Federmeccanica hanno spiegato molto bene come investimenti relativamente modesti per connettere tra loro impianti già esistenti, per raccogliere dati che si possono raccogliere con modesta spesa da impianti esistenti, per elaborare questi dati e dare loro un valore, possono da un lato aumentare immediatamente la produttività di questi impianti, ma dall'altra contribuire a un processo culturale da parte dell'imprenditore, da parte dei lavoratori che pian piano capiscano l'importanza di questo percorso e si convincano della necessità di investire non solo in tecnologia ma anche in formazione. Ecco, quindi ci deve essere, io credo, una gradualità che è legata non solo ai vincoli finanziari delle imprese, che non possono certo permettersi di buttare i macchinari che hanno e di comprarne di radicalmente nuovi, ma anche un tema di graduale penetrazione di una cultura nuova nei protagonisti di questo processo. Ecco, ma parliamo un attimo dei nuovi modelli di business resi possibili da queste tecnologie di interconnessione che chiamiamo Industry 4.0. Di che cosa si tratta? Ma sono tecnologie che noi possiamo definire abilitanti. Non è detto che tutti i modelli di business che possono essere abilitati abbiano un senso. Le faccio un esempio. È possibile oggi immaginare che chi produce lavatrici smetta di vendere le lavatrici e me le affitti. A quel punto io pago un canone base molto basso ogni mese e poi posso pagare una certa cifra per ogni bucato che faccio. Io non so se nel futuro questo particolare modello di business abbia una reale logica economica e si svilupperà mai, forse non si svilupperà mai, però le tecnologie che oggi esistono rendono ipoteticamente un modello di business di questo tipo praticabile. Venendo a un esempio invece più concreto che credo sia certo, in corso di implementazione, io posso connettere una macchina per il caffè a internet, dare in uso questa macchina a un mio cliente cinese con il patto che questo cliente deve usare la mia miscela per il caffè. Ora, se questa macchina è connessa a internet, io in tempo reale dall'Italia sono in grado di verificare se la mia controparte cinese sta rispettando gli accordi o no, perché io posso sapere se gli ordini di miscela di caffè che io ricevo sono coerenti col numero di caffè che lui fa. Quindi ci sono dei modelli di business. E quindi Ne ho un guadagno e posso vendere cose che prima era impensabile vendere. Se io sono un produttore di macchine che distribuiscono bevande e merendine, beh, io posso, volendo, vendere anche un servizio ai miei clienti, oltre alla manifattura. E il servizio consiste nel raccogliere i dati e trasmetterli su quali macchine sono vuote, quali prodotti mancano e quindi razionalizzare ed efficientare il processo di rifornimento di queste macchine. Questo per dire anche che questo è un processo tecnologico che rende la manifattura e il mondo della manifattura e il mondo dei servizi più contigui. C'è una zona grigia tra la manifattura e i servizi, perché diventerà sempre qualcuno la chiama Manu Service. Ecco, però io volevo, poi la lascio ancora parlare sui nuovi modelli di business, ma il contrasto che c'è tra la produttività potenziale che può esserci nell'investimento in tecnologie, in particolare nell'investimento in tecnologie di interconnessione, e la bassa produttività del sistema, secondo me ha una spiegazione. La spiegazione è che l'Italia si regge su un campione di 3.500 medie imprese, che sono quelle che esportano, sono quelle che investono in tecnologie, sono il quarto capitalismo teorizzato dal mitico Fulvio Coltorti, e queste imprese qua fanno anche questo tipo di investimenti. Dopodiché, spiace dirlo, ma è così, nel nostro sostrato manifatturiero c'è un larghissimo numero di imprese che sono arretrate, che non sono competitive, che vivono grazie a rendite di posizione e che questi investimenti non li fanno. E poi ci sono delle piccole imprese che non ne hanno la forza. Vede, ci sono degli imprenditori che sono degli eroi, ma ci sono anche altri che secondo me sono molto indietro, o che vivono di rendite di posizione, o che tirano a campare. Non è vero che il mercato è un meccanismo così perfetto che seleziona solo gli eroi, e in Italia a larghe sacche di inefficienza ci sono. Sì, credo che lei abbia assolutamente ragione, e credo anche che ci sia una sorta di romanticismo un po' pericolosa in giro. Cioè c'è l'idea molto diffusa che queste tecnologie, che ne so, rendano di grande successo il lavoro artigiano, il lavoro delle microimprese, eccetera. C'è certamente un elemento di verità in questo, non lo voglio negare. Cioè, ci sono alcuni mestieri artigiani di grandissima eccellenza che potranno, grazie a queste tecnologie, diventare svilupparsi veramente su una scala internazionale. Però è anche vero che se la grande impresa acquisisce, grazie a queste tecnologie, quell'agilità, quella flessibilità, quella rapidità di azione, quella capacità di produrre piccoli lotti, che oggi è un grandissimo punto di forza della piccola e media impresa italiana, beh, allora queste tecnologie possono costituire anche una minaccia. Cioè è anche possibile che qualcuno che è rimasto protetto dalla prima ondata dell'industrializzazione meccanica oggi si trovi in una nicchia che protetta non sarà più, e quindi ci sarà davvero la necessità di svegliarsi e di investire. Ma quindi secondo lei gli imprenditori che sono in ascolto, ecco, quale consiglio darebbe loro? Io credo che debbano essere curiosi e che si debbano rendere conto che hanno davanti delle grandi opportunità. Credo che siano opportunità non solo tecnologiche, che richiedono non solo competenze tecnologiche, ma anche creatività, fantasia, che sono tipiche capacità degli imprenditori italiani. Faccio un esempio: quando si parla tanto di stampa 3D, di manifattura additiva, beh, se uno poi va a scavare, vede che non succede quasi mai che si facciano in manifattura additiva degli oggetti identici a quelli che si fanno con la manifattura tradizionale. La manifattura additiva diventa economicamente vantaggiosa se io ripenso la forma degli oggetti e la riottimizzo per sfruttare al massimo il potenziale di questa tecnologia. Quindi c'è sì un tema tecnologico, c'è sì un tema di investimenti, ma c'è anche un grande tema di capacità creativa, di ripensare la forma delle cose, di renderle più belle, di renderle più efficienti e di sfruttare al massimo la caduta dei vincoli che si associa alla stampa 3D. Ecco, purtroppo il tempo è tiranno, però il professor Beltrametti, per parlare di questi temi affascinanti, sarà ancora ospite nostro nel corso dell'anno. La devo salutare, professore. Intanto grazie. Grazie a voi, buona giornata. A presto.